Radio 24 Reportage. Quarantena 2.0 di Rosanna Magnano. Lezioni online nelle scuole e nelle università, smart working, telemedicina, messe celebrate su YouTube, spesa al supermercato via web, chat e social per mitigare l'isolamento dei cittadini nelle zone rosse. Le tecnologie digitali aiutano la gestione dell'emergenza coronavirus in una quarantena che ormai è 2.0. Se le città sono semideserte, non tutto si è bloccato. In questo tour tra assistenza e lavoro digitali, la prima tappa sono gli studi dei medici di famiglia di Milano, che sebbene a porte chiuse per evitare contatti e contagi, restano aperti virtualmente, puntando su diagnosi telefoniche e mail, in attesa delle piattaforme informatiche protette che la regione avvierà a breve. Con uno strumento in più, la Digital Revolution in farmacia, che consente ai pazienti di ritirare le medicine senza passare dallo studio medico per la ricetta. Fiorenzo Corti, vice segretario FIMG e medico di famiglia a Masate, Milano. La regione Lombardia, con cui abbiamo lavorato in questi giorni, ha permesso praticamente di poter inviare al paziente questo codice alfanumerico. Con questo codice alfanumerico e con la sua tessera sanitaria, il cittadino può farsi dare in farmacia il farmaco di cui ha bisogno. Questo vale per il momento solamente per le ricette elettroniche, non vale per le ricette di fascia C, quelle a pagamento o quelle che sono escluse dal sistema informatico regionale. Sono presenti farmaci per la terapia del dolore, piuttosto che non farmaci per particolari situazioni cliniche dove è previsto un piano terapeutico. Per questi continua la prescrizione abituale, per il momento. Si adotteranno altri strumenti come l'invio tramite il web o la possibilità di consegnare in farmacia le ricette e in quel caso i pazienti potranno ritirare il farmaco a livello della farmacia. Dalle cure sul territorio agli ospedali, Philip Selker, che fornisce a diverse strutture italiane software sanitari, apparecchiature diagnostiche e medicali, ha dato la massima precedenza allo smart working per i propri dipendenti, assicurando al contempo un'adeguata assistenza tecnica nei reparti ospedalieri, anche da remoto. Andrea Celli, amministratore delegato della divisione Health Systems di Philips Italia, Israele e Grecia. In Italia abbiamo oltre 4.000 apparecchiature elettromedicali installate, più di 500 nella sola Lombardia. Si tratta di macchine ad altissimo contenuto tecnologico che richiedono assistenza, ricambi e configurazioni specifiche. Ad esempio alcune di queste, quali le TAC, di cui abbiamo circa 500 installazioni ospedaliere in Italia, sono essenziali proprio per il protocollo di cura del coronavirus. Per mantenere la continuità e gli alti standard dobbiamo mettere in condizione il nostro personale tecnico di lavorare in piena sicurezza. Su questo è doveroso da parte mia soffermarmi un momento in più. Stiamo parlando di persone abituate a lavorare in ambienti ad alto rischio potenziale, a contatto con patologie anche più rischiose dello stesso coronavirus, come solo titolo ad esempio la tubercolosi. Lo dico perché è necessario mantenere chiaramente alta la soglia di attenzione, ma non cadere in eccessi che generino panico e psicosi. Proprio rispetto alle operazioni di assistenza di cui parlavo, la tecnologia viene in nostro aiuto ancora una volta. Stiamo infatti favorendo il supporto da remoto, prassi che risolve già il 30% di tutte le nostre richieste di intervento, ma che ora trova la sua massima realizzazione con una grande collaborazione da parte degli operatori sanitari che necessitano di essere guidati negli interventi di manutenzione, ove possibile senza la presenza fisica dei nostri tecnici, quindi anche questo punto abbatte ulteriormente il rischio di contagio. Altro tema su cui stiamo lavorando è la gestione della crescente richiesta di ventilatori da parte di strutture ospedaliere sul territorio nazionale. Stiamo dando la massima priorità al nostro paese durante questa fase di emergenza al fine di riuscire a soddisfare la domanda di questi dispositivi che sono fondamentali per supportare la respirazione respirazione dei pazienti contagiati e ospedalizzati. Concludendo, stiamo costantemente monitorando con attenzione l'evolversi della situazione, senza assecondare in alcun modo controproducenti e inutili situazioni di panico. Ci teniamo ad esprimere la totale fiducia nel nostro sistema sanitario che ben conosciamo e la piena collaborazione con le autorità che stanno gestendo questa emergenza. Anche le università che hanno sospeso le lezioni si attrezzano per la formazione a distanza. Francesco Daveri, direttore del Master in Business Administration dell'Università Bocconi di Milano. C'è da dire però che il programma in particolare di cui sono direttore io, che è il programma MBA Full Time, è un programma molto intensivo in interazione fisica, cioè la ragione per cui studenti vengono da 30 paesi del mondo, studenti trentenni che hanno lavorato quindi 5-7 anni prima di venire da noi, vengono qui e si prendono un anno intero pagando anche un bel po' di soldi della loro risparmi e loro vita professionale, personale per venire qui, è perché in aula imparano tanto soprattutto dagli altri che sono in aula con loro. Quindi il nostro programma non è disegnato per fare apprendimento online, perché anzi si basa proprio sul fatto che ci sia interazione fisica. Però si fa di necessità virtù, in questo caso proprio questa componente veniva a mancare perché sono state sospese le lezioni fisicamente, e quindi quello che abbiamo fatto è stato di attrezzarci con alcuni dei nostri docenti per far svolgere le lezioni in una modalità un po' adattata necessariamente in formato distance learning, cioè con apprendimento e insegnamento a distanza. La cosa che noi abbiamo imparato, credo che io personalmente ho imparato in questa occasione, è che non tutto può essere digitalizzabile, non tutto si può fare da lontano, ma alcune cose si possono fare lontano. Gli studenti sembrano molto contenti, hanno apprezzato la risposta rapida a fronte dello shock, nel senso che il tutto è stato organizzato in qualche ora domenica pomeriggio, cioè quindi sono messo lì con il telefono, ho sentito i docenti, quindi anche un po' di componente di artigianalità e di fattore umano ovviamente è rilevante anche nel riuscire a far funzionare bene la tecnologia, ma senza la tecnologia non avremmo mai potuto farlo. When you were here before, ed è così che, pur nella difficoltà, l'emergenza coronavirus può diventare un'occasione per sperimentare su larga scala modelli alternativi di cura, studio e lavoro agile, superando limiti e pregiudizi che in Italia ne hanno rallentato l'applicazione. Giuseppe Scaratti, docente di psicologia delle organizzazioni e psicologia del lavoro alla Facoltà di Economia della Cattolica di Milano. In gioco è la possibilità di un rapporto diverso tra soggetti, esseri umani che lavorano, tecnologie che ormai diventano sempre più rilevanti e pervasive, pensiamo all'intelligenza artificiale, alla big data, a analytics, alla machine learning, sono ormai elementi che fanno parte della nostra vita quotidiana. Perché viaggiare in metro senza conducente, le auto elettriche che verranno sviluppate senza conducente, ma pensiamo agli utensili domestici, alla possibilità di accendere la luce o il gas comunicando in macchina con il nostro desktop, insomma, dicono di elementi che già pervadono la nostra esperienza. Il lavoro su questo, come cultura lavorativa diffusa, deve ancora compiere un salto, e sicuramente questa potrebbe essere un'opportunità. Ovviamente non va confinata a una, come dire, escamotage intelligente e spendibile dentro un contesto di emergenza, ma è un punto su cui va sviluppato un grosso lavoro di investimento. Pensiamo al rapporto tutto da studiare, tutto da sviluppare tra soggetto umano che lavora e robotica, per dire che si aprono davvero territori molto molto importanti, strategici, interessanti di sviluppo di queste realtà. Nella difficoltà, nella tragedia di una situazione appunto che non è piacevole, perché comunque un virus, al di là della intensità, della gravità, delle complicazioni patologiche che può comportare, penso che questa possibilità di investire, di praticare un po' esperienze anche pilota in alcuni casi di smart working possa consolidare un trend che in molte aziende è già avviato da un po' di tempo. Ecco. C'è il rischio, il limite di un isolamento, di una perdita delle dimensioni di socialità che il lavoro in presenza con altri tutto consente comunque e veicola. Sicuramente un misto tra dimensioni smart working e dimensioni in presenza potrebbe garantire davvero uno sviluppo anche delle culture organizzative e lavorative nel nostro paese. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.